in primo piano. Buongiorno, benvenuto a Lionello Mancini del Sole 24 Ore. Buongiorno Lionello. Buongiorno, buongiorno Irene, buongiorno a tutti. C'è qualche notizia sull'Iraq oggi? No. E infatti, dove è finito l'Iraq è un altro dei temi che affronteremo. Cosa c'è in primo piano? Ma guarda, ci sono delle notizie che sono un po' su tutti i giornali, abbastanza, in maniera abbastanza equilibrata. Dopodiché ci sono delle cose che ogni giornale è andato ad approfondire. Direi che la cosa che forse può essere interessante per molti è questo arrivo in Italia della pillola abortiva, con comprensiva del no del Vaticano, però questo lo sapevamo già. E così come c'è questo progetto di cui parlerò andando qui e là sui giornali, di questo piano per il sud del governo che prevede, pensa un po', la ricostituzione della cassa per il mezzogiorno. Tu sei... si va avanti. Sei troppo giovane per sapere... Per ricordarmi la cassa per il mezzogiorno. Grazie Lionello, purtroppo lo ricordo benissimo, ma ti prendo la lettera, fingerò di non sapere di cosa si tratti, ma ti ascolteremo con grande interesse su questi temi che naturalmente dividono. Bene, allora cominciamo pure dalla Stampa, che nella sua prima pagina riporta proprio i temi di cui parlavo pochi istanti fa con Irene. Quindi nella parte alta troviamo: arriva in Italia la pillola abortiva, il no del Vaticano, la RU486 presto in commercio, l'agenzia del farmaco decide a larga maggioranza. Quindi si è in realtà spaccato l'organismo che dà il via libera ai nuovi farmaci nel nostro paese, però c'è stato il sì e l'approvazione. Ancora, sud, il piano di Berlusconi, via a grandi infrastrutture, serve un nuovo ente, Scaiola, 2 miliardi per strade e acquedotti. Oggi lo chiede il governo, verrà modificato il decreto anticrisi, salvata la Corte dei Conti. Allora, questo tema io lo trovo particolarmente interessante, questo del sud, perché mi sembra un tema che tutti giustificano in maniere le più diverse, ma che sostanzialmente è uno spostamento di risorse ed è una struttura, un'organizzazione che vedrà un ente che assomiglierà molto alla cassa per il mezzogiorno, poi si parla di una banca per il sud, insomma sta venendo fuori una struttura, ritengo che potrebbe essere persino molto costosa, non so di quale efficacia, per sostanzialmente, almeno questa è l'impressione, chiudere un problema politico all'interno della maggioranza, ovvero sia il Popolo della Libertà non poteva permettersi di perdere una regione come la Sicilia e il duo il governatore nuovo della Sicilia e anche un pezzo del Partito della Libertà si erano proprio, come dire, mossi in questa direzione, cioè hanno fatto balenare il ricatto di una scissione se non si sarebbe fatto come chiedevano loro. Ed ecco che con questo voto di oggi, quindi, inizia una storia, o riprende una storia sulla quale invito gli ascoltatori a prestare molta attenzione. La cassa per il mezzogiorno è qualcosa di cui chi ha più di 50 anni sicuramente ricorda, è stata una vicenda che è costata un sacco di soldi agli italiani e una vicenda che non ha portato, almeno apparentemente, ma almeno per quello che si vede in giro, alcun beneficio al mezzogiorno. Non è che ci sono ora, con tanti soldi spesi, una viabilità perfetta, una distribuzione dell'acqua che funziona, delle reti elettriche che consentono lo sviluppo delle abitazioni ordinate e decenti. No, di questo non c'è nulla, ma però sembra che la storia stia per ripetersi. Allora, vi dicevo, la Stampa. Vorrei, prima di anche segnalarvi due o tre temi che tratta la Stampa, prima di lasciarla, uno è un tema che troveremo più o meno su tutti i giornali, e cioè: cara Gelmini, la scuola non è regionale. Un articolo di Umberto Veronesi che spiega come, secondo lui, questa idea della Lega, a cui la Gelmini ha dato un sì di massima, ovvero una specie di test di localismo per i professori, sia una scelta che rischia anche questa di essere foriera di problemi. C'è poi un articolo di Michele Ainis, di cui vorrei leggervi una breve parte, che è sulla democrazia zoppa d'Italia. Scrive Michele Ainis, ancora qualche giorno, poi il Parlamento andrà in vacanza, ma in realtà le vacanze dei parlamentari durano dall'avvio della legislatura. Anzi, i nostri rappresentanti non sono in ferie, sono già in pensione. Cosa vuol dire Michele Ainis? Lo vediamo nella continuazione del suo articolo all'interno, a pagina 35 della Stampa. Dice: l'asservimento delle Camere al governo dipende da tre cause. Una originaria, la legge elettorale che ha trasformato gli eletti in nominati, privandoli di indipendenza e dignità. E due cause successive, l'abuso dei decreti legge e dei voti di fiducia. I primi, i decreti legge, sono ormai una quarantina. In questo scorcio di legislatura, benché i costituenti ne avessero immaginato l'adozione soltanto dopo un terremoto. Quanto alle fiducie, fin qui ne abbiamo contate 23, per lo più imposte dall'esecutivo durante la conversione dei decreti, come è appena accaduto sul decreto anticrisi. Ecco come dall'analisi di Ainis si deduce una critica a questo sistema, diciamo all'assetto istituzionale attuale, per cui il Parlamento, che è una cosa che per la verità lamenta spesso anche l'opposizione, viene bypassato attraverso l'utilizzo di questi decreti. Prima di lasciare la Stampa vi segnalo, per chi fosse interessato a questo tipo di temi, ma penso che siano temi che interessano tutti, le pagine 12 e 13 in cui si tratta del cibo biologico. Il biologico fa bene solo a chi lo produce. Una ricerca inglese fa a pezzi il mito del cibo sano. Non ci sono prove che nutra di più e meglio. E c'è anche una intervista a Carlo Petrini del Slow Food che non nega, dice: troppe promesse, riferendosi appunto ai benefici del cibo bio, troppe promesse, c'è chi se ne approfitta. E ancora nella seconda pagina, tra affari e ideologia verde, una inchiesta sulla produzione e sulla distribuzione del cibo e del cibo biologico, e alcuni numeri che sono interessanti. In Italia ci sono 49.859 aziende che si fregiano del marchio di vendita di prodotti bio, ci sono 8 milioni di italiani che consumano, che preferiscono come scelta di vita la mangiare cibo biologico, 2 miliardi di euro il business del bio in Italia, 1114 i negozi che vendono prodotti bio, 1178 gli agriturismo nel quale si dice appunto si produce e si mangia cibo biologico, 110 i siti online che trattano di questo argomento. Veniamo ora al Sole 24 Ore. Sul Sole 24 Ore, in maniera abbastanza così controcorrente se vogliamo, ma voglio iniziare la lettura dal fogliettone, e cioè il fogliettone è questo articolo che in genere è in fondo alla pagina 1 del Sole 24 Ore, che vi consiglio sempre di tenere d'occhio insieme anche alla storia che c'è, il colonnino che inizia dalla spalla della prima pagina del Sole, perché in questi spazi troviamo spesso delle cose che gli altri giornali non hanno, o degli argomenti, dei temi o dei tagli, dei punti di vista abbastanza diversi. Il resto della prima pagina del Sole ovviamente è un po' più diciamo mirata al core business del giornale, quindi la fiducia spinge le borse è il titolo di apertura ed è un bel titolo, rialzi oltre il 2% in Europa, e le buone trimestrali negli USA, le trimestrali sarebbero i conti che ogni tre mesi le società devono presentare, le buone trimestrali negli USA danno slancio a Wall Street che fa più 1,19%, rimbalzano le materie prime. Ma vi dicevo, la storia di Fogliettone, la scritta Marzio Bartoloni, si riferisce alla introduzione in Italia della RU486, la pillola del giorno dopo, la pillola abortiva, ed è la storia di una giovane donna che racconta: ero nella Cattolica Baviera e ho usato quella pillola. Ve ne leggo alcuni brani. Aveva 24 anni quando rimase incinta in Germania, nella cattolicissima Monaco di Baviera, e decise di ascoltare i consigli di un suo amico ginecologo che dall'Italia al telefono le disse: chiedi la pillola abortiva. Nel giorno in cui il CDA dell'AIFA, l'Agenzia per il Farmaco, dà il via libera a questa RU486, CM, giovane avvocato fiorentino, non riesce a credere al chiasso che in Italia è scoppiato sulla pillola della discordia. Lei, allora, anche se terrorizzata, virgolettato quindi una parola sua, non ci ha pensato su due volte. Al posto del bisturi e del ricovero in ospedale ha scelto l'aborto farmacologico. Non una scorciatoia, ma una via alternativa che si è dimostrata in quel momento più semplice. Non ho sofferto dolori, nessuna controindicazione, forse perché ero all'inizio della mia gravidanza. E non è successo in ospedale, ma in metropolitana. Vediamo come continua questa storia. Qui racconta proprio, insomma, diciamo, la vicenda che l'ha vista al centro di questa storia. Siamo nel 2002, 7 anni fa, e nella, appunto, ricorda, cattolicissima Baviera. Dice, poi dice l'avvocato che racconta la sua vicenda, poi è cominciata la procedura. Sono andato in ambulatorio medico dove, dopo una visita accurata, ho assunto la pillola abortiva e quindi sono tornata a casa. Il terzo giorno, racconta, sono dovuta tornare per assumere il secondo farmaco, quello necessario per l'espulsione del feto. Un momento delicato che, secondo molti in Italia, dovrebbe prevedere obbligatoriamente un ricovero ospedaliero o almeno un day hospital. Invece, nell'ambulatorio di Monaco di Baviera le consigliano di restare lì, seduta, oppure di tornare a casa e di avvertire nel caso in cui ci fossero state complicazioni o emergenze. CM sceglie di tornare a casa e il momento più delicato, il distacco del feto, avviene addirittura in metropolitana, ma senza dolori forti. Ho sentito la stessa sensazione che si prova con una mestruazione abbondante. L'ospedale e i medici sono lontani, alla fine tutto è successo nel momento più ordinario possibile, accanto agli altri passeggeri della metro tedesca. Ecco, mi sembra un modo molto diretto, molto civile di affrontare questo tema. Sempre sul Sole 24 Ore, largo spazio dedicato al Sud, ovviamente via libera la manovra con 4 correzioni, e tra queste correzioni c'è anche l'ente per il Sud. C'è il viaggio ad Agrigento, nella Valle degli Sprechi, di Giuseppe Oddo. Siamo alla pagina 2. Benvenuti nella Valle dei Fantasmi, nel consorzio Asi di Agrigento. Scrive Giuseppe Oddo, edifici vuoti, fiumi di finanziamenti, zero sviluppo. Per 54 imprese, un consiglio di 50 persone. I consorzi ASI sono queste aree di sviluppo industriale che sono sostanzialmente dei parlamentini, insomma dei posti che servono molto a dare poltrone ad amici o a persone, diciamo, che cercano un'occupazione, poi non funzionano e con loro non funziona ovviamente nulla di quello che a loro volta dovrebbero fare funzionare. La pagina 3 del Sole è dedicata alla cassa e alla banca per il Mezzogiorno. Il Premier, nelle linee guida anche la fiscalità agevolata. Al CIPE il piano carceri. Oggi al Consiglio dei Ministri la relazione del Cavaliere sul piano per il Sud, quindi aspettiamo anche i dettagli di questa operazione. E si parla di 4 miliardi per la Sicilia, qualcun altro parla di 500 milioni pronti per le infrastrutture, insomma ci sono diverse possibilità che oggi avremo con più chiarezza dalla conferenza stampa. Vi segnalo ancora a pagina 4 del Sole 24 Ore, il prefetto e i sindaci pagate le aziende, debiti della pubblica amministrazione, circolare a 120 comuni della provincia di Roma, lo Stato italiano maglia nera in Europa nei pagamenti della pubblica amministrazione. Maglia nera significa che ci sono dei tempi di liquidazione delle imprese che lavorano per la pubblica amministrazione che sono obiettivamente lunghissimi, mettono in difficoltà le imprese e spesso le costringono a chiedere soldi in prestito alle banche alle condizioni che potete immaginare, e già quando li chiedono alle banche andiamo bene, perché a volte sono costretti a chiederli a chi poi applica dei tassi da usura, ovvero ai cravattari. Il Giornale, che ha un titolo che ci introduce a un altro argomento trattato con più o meno diffusione di dettagli anche su tutti gli altri giornali, e il tema è la Tangentopoli rossa che volevano coprire. Hanno cercato di far credere che l'inchiesta di Bari riguardasse un giro di escort. La verità? 5 partiti di sinistra, tra i quali quelli di Vendola e del sindaco Emiliano, accusati di falso, truffa, corruzione e collusione con clan mafiosi. Allora, il Manifesto utilizza il titolo di un film ambientato in Puglia, La capa gira, un'altra scossa a Bari. Ecco, attenzione alla parola scossa, perché tornerà più volte come così, come dileggio, come presa in giro a Massimo D'Alema, che nel pieno del problema dello scandalo escort aveva parlato di una scossa che stava per arrivare. Allora scrive il Manifesto, la capa gira, un'altra scossa a Bari, il PM antimafia ordina la perquisizione delle sedi di PD, PRC, Socialisti, Sinistra e Libertà e Lista Emiliano. Si indaga sui finanziamenti illeciti ai partiti, intrecci tra mafia e politica, tangenti nella sanità. Sequestri della Guardia di Finanza al Policlinico, nel mirino l'ormai noto Tarantini. Tarantini, ricorderete, è quell'industriale, giovane industriale nel campo delle protesi sanitarie, che procurava appunto a pagamento le ragazze per le feste romane o sarde. L'Europa, il giornale del Partito Democratico, ha anche questo giornale la stessa notizia, devo dire obiettivamente più in breve, anzi devo dire un po' troppo in breve, perché in prima pagina ci saranno circa 12 righe intitolate I carabinieri nelle sedi del centro-sinistra barese, e non è che da questo, insomma, se uno legge solo Europa, non è che siano tanti, però insomma, se uno legge solo questo giornale, credo non capisca che cosa è successo. Chiaramente il giornale, che peraltro sta per cambiare direttore, sta per tornare Vittorio Feltri, che lascia Libero, il giornale ovviamente anche lui insomma monta un po' la panna su questa vicenda, perché la verità, 5 partiti di sinistra accusati di falso, è qualcosa che non si può dire, perché non si possono mettere sotto accusa i partiti, si mettono sotto accusa le persone eventualmente che fanno parte o hanno ruoli dirigenti in quei partiti. Veniamo quindi su questo tema a un giornale che cerca di raccontare le cose in una maniera un po' più obiettiva. Bari, accuse al centro-sinistra, siamo al Corriere della Sera, perquisite le sedi dei partiti della giunta Vendola, finanziamenti in cambio di appalti, e spunta l'ombra della mafia. Appalti della sanità pugliese, leggo dal Corriere della Sera, che dedica le pagine 2 e 3 a questo tema. Appalti della sanità pugliese per finanziare i partiti del centro-sinistra, ma anche intreccio tra mafia e politica. Sono queste le ipotesi di reato su cui si basa l'inchiesta della PM antimafia barese Desirée Di Geronimo, che ha portato al sequestro dei bilanci di PD, Socialisti, PRC, Sinistra Indipendente, Lista Emiliano. Una ventina le persone indagate, tra le quali il senatore Alberto Tedesco, ex assessore regionale alla sanità, e l'imprenditore Giampaolo Tarantini, che opera nel settore delle protesi. Tarantini è già indagato per favoreggiamento della prostituzione per il presunto giro di donne, tra cui la escort Patrizia D'Addario, invitate a feste organizzate da Berlusconi a Palazzo Grazioli e a Villa Certosa. Ancora il Corriere della Sera riporta questa foto notizia, distesi al sole accanto a un morto in una spiaggia sul lungomare di Napoli, la cosiddetta Mappatella Beach, è annegata una persona, questa persona si vede dalla foto, è sdraiata sulla spiaggia coperta da un lenzuolo bianco, e intorno i bagnanti, almeno apparentemente, stanno continuando la loro giornata normale. Ancora austerity sull'Expo, pronto il piano B, un rapporto al ministro dell'economia, tagli per quasi 2 miliardi di investimenti. Questo Expo, che è proprio partito male, sta continuando a zoppicare verso il 2015 e ora è pronto un piano B con dei finanziamenti ridotti. Vento di austerity sull'Expo che Milano ospiterà nel 2015. Un dossier per il ministro dell'economia ridimensiona gli introiti e i turisti previsti per l'evento. È un piano B che taglia di quasi 2 miliardi di euro gli investimenti annunciati. via Torri, Padiglioni e vie d'acqua. Si punta sulla valorizzazione delle risorse di Milano. Allora, specialmente per chi vive a Milano, credo che questo sia un tema interessante da approfondire e su cui andare a leggere qualcosa di più, ma per, in generale, per chi sta in Italia, da qualunque parte abiti, credo che questa occasione dell'Expo sia un'occasione che travalica i confini di Milano e della Lombardia e quindi che possa interessare un po' tutti. Torniamo al discorso CASMEZ. CASMEZ è l'abbreviazione di Cassa per il Mezzogiorno. Sempre il Corriere della Sera, pagina 5, Meridione via un nuovo ente e a una banca. Oggi fiducia sul decreto anticrisi e varo dei ritocchi, il pressing del Quirinale. E a pagina 6 troviamo proprio una, giustamente, una ricostruzione con delle foto storiche, una ricostruzione di che cosa è stata la Cassa per il Mezzogiorno. L'idea di Pasquale Saraceno, uno dei più grandi meridionalisti che abbia avuto l'Italia. Acquedotti, ponti e strade, così la CASMEZ durò 40 anni. Un articolo di Enrico Marro che termina così. Una storia controversa. Secondo la ricostruzione fatta da Gian Antonio Stella sul suo libro Lo Spreco, che insomma il titolo già introduce al cuore del problema, tra il 1951 e il 1992 Cassa e Agenzia, perché poi a un certo punto si chiamò l'Agenzia per il Mezzogiorno, hanno assorbito 279.763 miliardi di lire, pari a circa 140 miliardi di euro, una media di quasi 3 miliardi e mezzo all'anno. La stessa Svimez, istituto meridionalista per eccellenza, già nel 92 ammetteva che il rapporto tra costi e risultati ottenuti dall'intervento straordinario si è fatto sempre più insoddisfacente, virgolettato, visto che, virgolette, il prodotto per abitante del sud è ancora del 43% inferiore a quello del centro-nord. Ma la Svimez salvava il periodo iniziale, fondamentale per la ricostruzione del sud. Tra il 1950 e il 1989, concludeva il rapporto, la spesa in lire aventi potere d'acquisto dell'89 è stata mediamente di 5.000 miliardi all'anno, pari allo 0,7% del reddito nazionale. Per il ripianamento del deficit delle ferrovie dello Stato si è speso molto di più. Questo dunque un ricordo della Cassa per il Mezzogiorno che è un tema sul quale, ripeto, conviene tenere gli occhi aperti perché sembra che si stia ripresentando come possibilità di spreco o di utilizzo delle risorse in maniera malsana. A pagina 15 del Corriere della Sera troviamo degli articoli sulle vicende di ieri in Iran. A 40 giorni dall'uccisione della ragazza 26enne nelle strade di Teheran, migliaia al cimitero, scontri e arresti sulla tomba di Neda. In Iran i riformisti sfidano il regime. Allora, su questo abbiamo anche degli altri articoli su altri giornali, in particolare perché dopo 40 giorni succede questo? Bene, nel calendario sciita il 40° giorno da un avvenimento di morte è un momento importante, è un momento che va ricordato e ieri infatti si è svolta la manifestazione al cimitero sulla tomba di questa ragazza, solo che anche lì è intervenuta la polizia. Alleggeriamo un momento, abbiamo ancora un minuto o due credo di tempo. A pagina 24 del Corriere della Sera, la brambilla e i turisti truffati, danno al paese, farò causa. I giapponesi invitati a tornare gratis dal ministro per il turismo Michela Brambilla gli hanno risposto: sì, torneremo, ma verremo a nostre spese, non vogliamo pesare sulle tasse degli italiani. Cioè, non so che cos'altro debbono insegnarci questi giapponesi. Hanno pagato un conto da 700 euro in un ristorante, hanno fatto la denuncia, il ristorante è stato chiuso, li invitano a tornare gratis, dicono no, paghiamo noi, perché comunque sono questioni nostre. E infine, chiudiamo con questa nota, come ricordava prima Irene, siamo infine alla fine di una settimana e alla fine di un mese come luglio, J.Lo compie 40 anni. E fin qui uno può anche dire vabbè, affari suoi, però aggiunge anche: compro casa qui come George Allora, un po' di decrittazione di questo titolo del Corriere. J.Lo è Jennifer Lopez, che è a Roma con il marito e i due gemelli. Da Clooney, George, alla Roberts, Julia. Le vacanze italiane dei divi di Hollywood. Chi fosse interessato al genere trova a pagina 24 un articolo molto dettagliato su questi divi che amano l'Italia. E con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima occasione.